Ciao a tutti. Confini, dogane, territori, parole che ci fanno pensare alle divisioni fra stati, tra entità politiche che possono avere rapporti più o meno amichevoli, ma autonome nella loro separatezza. Ma se provassimo a ripensare il significato del confine, se non lo vedessimo come una linea neutra che divide, se esso stesso avesse un senso se non il senso principale, è il confine. Il limite a dare senso all'entità da esso separate. Luogo virtuale, ma fondativo, il confine rappresenta ciò che fonda la realtà oggettiva dei luoghi confinanti. Ecco, delimitare non significa rendere incomunicanti, diversi, nemici. Al contrario, vuol dire qualificare le realtà nei propri caratteri che sono di natura relazionale.